Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Inizia una nuova settimana di appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È nato a Milano nel 1966, musicista, produttore, scrittore. Dalla seconda metà degli anni Ottanta il suo nome è legato al suo gruppo, gli After Hours. Nel 2009 è premiato come miglior produttore dell'anno dal meeting delle etichette indipendenti per il progetto Il Paese è Reale, che ha riunito 19 tra i migliori artisti indipendenti e che ha portato all'attenzione del grande pubblico la scena indie italiana. Nel 2009, sempre a sorpresa, porta gli After Hours a Sanremo. Vincono il premio della critica. Per lui, un'estate in tour, stiamo parlando di e con Manuel Agnelli. La nostra estate sarà abbastanza vivace perché in realtà stavamo facendo il disco nuovo e non pensavamo di suonare, ma siamo molto molto avanti con le registrazioni, avevamo in programma comunque di farlo uscire l'anno prossimo e quindi ci siamo presi una pausa quest'estate che ci servirà anche un po' a riragionare su quello che abbiamo fatto in studio. Faremo tante date, ne faremo almeno 20-25, un po' in giro fra il nord e il sud, riusciremo ad andare anche al sud stavolta per fortuna e faremo una scaletta mista fra pezzi molto vecchi e pezzi invece più recenti, magari con qualche incursione di qualche pezzo nuovo che stiamo mettendo nel disco tanto per trovarlo live. Fra l'altro abbiamo iniziato appunto prima del tour italiano a fare questo piccolo tour europeo per le capitali europee che ci è servito un po' sia per rodare il tour estivo che per avere una dimensione un po' diversa, no? Invece delle folle che per fortuna adesso finalmente vengono a vederci qua in Italia, in realtà provare ancora a fare i clubini piccoli davanti a poche persone perché è una dimensione che un po' ci manca e che in Italia sta diventando un po' difficile da gestire. Siamo a Berlino, prima tappa del mini tour europeo, città sempre piacevole per tutti e anche poi soggettivamente, città natale della mia mamma, per cui ho un legame di sangue con questa città. Berlino è sempre molto stimolante, è una città in perenne cambiamento. Non sarei... Ero proprio curiosa di sapere com'era stato l'impatto in Europa. Ma guarda, l'impatto in Europa è stato diverso a seconda delle città, perché in alcuni posti i club sono molto belli, molto ben attrezzati e c'è un pubblico magari misto, no? 50% italiani che stanno all'estero, che vengono all'Italia, 50% lì locali, e sono le situazioni più stimolanti perché in realtà sei confortato dalla gente che viene dall'Italia, che ti supporta, però nello stesso tempo sei stimolato dalla gente che non ti conosce o ti conosce poco, che quindi non ha pregiudizi anche positivi su di te, no? E quindi sei portato comunque a convincerli e a capire che cosa veramente funziona della tua musica e che cosa invece funziona soltanto perché c'è stato passaparola, le copertine, le interviste, eccetera, eccetera. È una cosa molto sana, secondo me, il fatto di rimettersi un po' in gioco. Ti fai quindi ancora domande dopo 20 anni di After Hours? Ma spero di farmele sempre, perché le domande secondo me sono alla base della crescita di ogni musicista. Se non cresci muori, se ti siedi sulle cose che hai già fatto diventi un saltimbanco e io non ci tengo sinceramente, con tutto rispetto per i saltimbanchi e con tutto rispetto per la professione, che comunque è una professione come un'altra, però non ci tengo ad accontentarmi di quelle cose lì, anche a costo di essere così alle volte impopolare, no? Con chi ti segue, che giustamente vuole riconoscersi nelle cose che fai perché comunque portano conforto, divertimento o punti di riferimento anche piccoli, no? E quindi quando non gli dai queste cose appunto rimangono spiazzati e magari certe volte non apprezzano, ma in realtà è una forma di rispetto grande per il pubblico quella di non telefonare le cose che facciamo, è una forma di rispetto nel considerarli alla pari di noi, sempre in evoluzione insomma, no? E quindi di non avere sorrisi finti e di circostanza. Qual è il segreto nel trovare l'equilibrio tra l'essere un passo avanti e l'essere comunque alla fine inevitabilmente popolari, perché lo siete? Ma il segreto è di non fare le cose per essere popolari, penso, nel senso che poi la popolarità uno deve imparare a gestirsela e noi non lo facciamo sempre bene. perché non siamo nati per quello, non abbiamo quel tipo di talento lì, non siamo personaggi del mondo dello spettacolo, non siamo nati con quel talento, quindi è difficile per noi gestire la popolarità. Non è neanche una domanda che ci facciamo, abbiamo scelto di fare musica e continuiamo a fare musica, e la popolarità, per carità, ci fa piacere, intendiamoci, però non è il primo dei nostri obiettivi, e forse per questo riusciamo comunque a essere comunque sempre abbastanza indipendenti dalla popolarità e dal successo di quello che facciamo. Dici sempre le preghiere, conti sempre fino a 10 e preghi ancora che non tocchi a te. E quella parentesi sanremese, come te la ricordi? Molto divertente, me la ricordo come intanto la scoperta, perché all'interno di un mondo, quello dello spettacolo, che è terribile, però ho trovato tante persone in gamba, e questa è una cosa che mi ha un po' confortato, mi ha un po' riappacificato con l'umanità, nel senso che comunque ci sono persone in gamba dappertutto e ci sono persone non in gamba dappertutto in qualsiasi ambiente, anche nel nostro. E poi comunque molto divertente, comunque è stata una cosa diversa da quella che facevamo di solito, ci siamo messi alla prova in maniera molto estrema e abbiamo portato comunque un progetto, e questa cosa qua ci ha fatto sentire bene perché avevamo la forza di questo progetto alle spalle e questo tipo di significato qua, quindi non avevamo le pressioni che avevano gli altri che così andavano in gara con lo scopo di vincerla sta gara, no? Manuel, parlavamo del progetto del Paese Reale, un progetto che non era solo musicale, culturale, anche sociologico, politico, come definirlo? Ma guarda, io non voglio ingrandire le cose, è semplicemente stata una piccolissima cosa, come altre piccolissime cose abbiamo fatto in passato, per cercare di attirare un po' l'attenzione su una realtà che è quella del nostro ambiente. È anche importante, secondo me, per chi ha fatto un percorso, trasmettere la propria esperienza, ma in modo che non si ripetano sempre gli stessi errori. Ho visto che in realtà in Italia c'è un cortocircuito all'interno di una scena, la nostra, la gente parla sempre le stesse cose, fa sempre le stesse polemiche, si pone sempre le stesse questioni che non si risolvono mai, forse perché le esperienze proprio non si tramandano, e quindi per noi era molto importante fare delle piccole cose, però almeno fare quelle, insomma. Se tu fossi adesso alle prese con gli esordi in un mondo della musica come quello di adesso, è tutto diverso, è tutto più complicato? Ma è complicato in modo diverso, è sicuramente diversa la situazione, ma non è più o meno complicata, la situazione era molto complicata anche quando abbiamo iniziato noi, non c'erano locali, suonavamo nei posti più trasandati e impossibili della nazione, perché quello che volevamo fare noi non era tanto fare i fighi con la musica, passami il termine, ma era un bisogno espressivo, e quindi il posto lo trovavi. È vero che adesso invece purtroppo gli obiettivi sono cambiati, e diciamo che le pressioni sociali sono diverse, sono molto più forti concetti come l'apparire, l'essere famoso, comunque anche per il famoso quarto d'ora, quindi finire in televisione diventa determinante, andare in radio diventa determinante, molti gruppi mi domandano come si fa a diventare famoso, che poi stanno domandando anche alla persona sbagliata probabilmente, perché se l'avessi saputo l'avrei fatto prima, forse, però diciamo che è la tensione che è sbagliata, secondo me, la gente deve ricominciare a suonare per delle motivazioni che sono un po' più profonde di avere dei risultati professionali, no? Secondo me solo così si può scuotere comunque un sistema di cose, solo così un sistema di cose poi rinasce, perché se no, se parliamo dal punto di vista professionale, chiaramente questa è un'industria che sta sprofondando nel baratro, no? quella della riproduzione della musica, e per certi versi per fortuna, perché si sono aperti degli spazi di libertà che in passato non c'erano. Quali saranno le ispirazioni che state raccogliendo per il prossimo album? Ma sicuramente stiamo, come tutti, guardandoci intorno e così assorbendo quello che ci sta succedendo come persone, quindi i contenuti del prossimo album saranno sicuramente fortissimamente sociali. Per noi essere musicisti oggi vuol dire fare informazione, vuol dire fare un'informazione che i media non possono fare, cioè quella delle emozioni, quella dei sentimenti della gente di fronte agli avvenimenti, l'inquietudine che in questo momento la gente sta provando rispetto alla mancanza di punti di riferimento che non ci vengono dalla politica, che non ci vengono comunque dalle istituzioni, che non ci vengono neanche dagli organi morali che dovrebbero in realtà riuscire a fornirli. Cosa sei? Voglio concludere con una domanda molto leggera, ma voglio sapere cosa hai provato quando ti hanno detto Mina vuole cantare con te. Una grande emozione, lo confesso, e anche un grande orgoglio, anche questo lo confesso, nel senso che per me è stato sì emozionante perché è la più grande voce della musica pop, è riduttivo, la più grande voce della musica italiana al di fuori della lirica, direi, oltre alla sua intelligenza nel rapportarsi con cose diverse da quelle che fa lei di solito, e anche un riconoscimento al fatto che probabilmente noi siamo musicisti al di là dell'attitudine, se interessiamo comunque un personaggio come Mina. Questa cosa quindi ci ha fatto sentire molto molto orgogliosi anche dalla nostra parte musicale, appunto al di là dell'attitudine, al di là della nostra storia. Grazie. Yeah. After hours. Per l'appuntamento con Voci in Scena di oggi è stato con noi Manuel Agnelli, l'appuntamento è per domani. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.